Una squadra di agenti di polizia sboccava da College Street, marciando in fila indiana. Passo d'oca, visi congestionati dal pasto, elmetti sudaticci, le mani sulle mazze, dopo il pasto con la pancia piena di minestrone sotto la cintura. Il destin del poliziotto spesso è felice assai. Si divisero in gruppi e si sparpagliarono, salutando, ognuno al suo posto stabilito. Liberi al pascolo. È il miglior momento per attaccarne uno subito dopo il dolce. Un diretto assestato al pranzo. Una seconda squadra, marciando irregolarmente, girò attorno ai cancelli di Trinity College verso il commissariato. Prua al truogolo, pronti a ricevere la cavalleria, pronti a ricevere la minestra. Traversò sotto il dito birbone di Tommy Moore. Han fatto bene a metterlo sopra un orinatoio. Incontro di correnti. Ci dovrebbero essere posti per le donne. Si precipitano nei caffè per rassettarmi il cappello. Non una valle in questo vasto mondo. Grande romanza di Julia Morgan. La voce le ha retto fino in fondo. Allieva di Michael Balfe, vero? Seguì con lo sguardo l'ultima ampia giubba. Gente difficile da trattare. Jack Power potrebbe una storia svelare. Padre questurino. Se è un tale da del filo da torcere per farsi arrestare, gliela fanno sentire bella calda nelle parti tenere. Ma dopo tutto non gli si può dar torto, con le grane che hanno, specialmente i pivelli. Quel poliziotto a cavallo, il giorno che Joe Chamberlain ricevette la laurea ad honorem a Trinity College, ne ebbe di da fare quanto ne volle. E come? Gli zoccoli del cavallo ci scalpitavano dietro giù per Abbey Street. Fortuna che ebbi la presenza di spirito di infilarmi da Manning, se no ero fregato. S'è preso una di quelle botte per Diana. Si deve essere spaccato il cranio sul selciato. Non mi sarei dovuto far trascinare da quegli studenti di medicina e quei ragazzi di Trinity College con tanto di tocco accademico. Vanno a cercar guai. Però fu così che conobbi quel Dixon, che mi curò quella puntura al mater, e ora è Holles Street dove è Mrs. Purfoy. Ingranaggi. Ho ancora i fischietti della polizia nelle orecchie. Tutti a gambe levate. Perché si fissò su di me? Mandarmi in guardina. Cominciò proprio qui. Viva i boeri! Tre urrà per De Wet! Impiccheremo Joe Chamberlain all'albero di Giuda! Bischerelli. Una banda di cuccioli che si fanno uscire le budella di bocca a forza di abbaiare. Vinegar Hill. La fanfara dei lattai. Dopo pochi anni, la metà di loro magistrati e pubblici funzionari. Arriva la guerra, tutti di corsa nell'esercito, gli stessi che dicevano, sia pure sul patibolo. Non si sa mai con chi si parla. Corny Keller ha una faccia da ipocrita, come quel Peter o Dennis o James Carey che spifferò tutto sugli invincibili e stava nell'amministrazione comunale. Aizzava i giovani inesperti per entrare nel giro e riscuoteva lo stipendio dal castello per il servizio segreto. Poi l'han buttato a mare, perché questi agenti in borghese fan sempre la corte alle servette. È facile distinguere un uomo abituato all'uniforme. Si appoggia sempre alle porte di servizio, brancicarla un po', poi passa alla portata successiva. E chi è il signore che fa tante visite a casa? Cosa diceva il signorino? A spiare con l'occhio dal buco della serratura, specchietto per le allodole, studentello dal sangue caldo che girella attorno alle sue braccia grasse mentre stira. Son tue, Mary? Non porto roba di questo genere. La smetta, o lo dico alla padrona. Fuori quasi tutta la notte. Succederà qualcosa di grosso, Mary. Aspetta e vedrai. Oh, vada un po' lei, è quel che succederà. Le bariste anche, le tabacchine. L'idea di James Stevens era la migliore. Li conosceva. Gruppi di 10, così uno non poteva cantare su quelli fuori del suo gruppo, Sinn Féin. A tirarsi indietro si prende una coltellata. Mano nascosta. Aderire. Il plotone d'esecuzione. La figlia del secondino l'ha fatto uscire da Richmond. Si imbarcò a Lask. Prese alloggio all'albergo Buckingham Palace proprio sotto al loro naso. Garibaldi. Si deve avere un certo fascino. Parnell. Arthur Griffith ha la testa sulle spalle, ma con le masse non ci sa fare. oppure parlare all'infinito della nostra bella patria. Idiozie. Sala da tè della Dublin Bakery Company, associazioni per i dibattiti pubblici, che la Repubblica è la miglior forma di governo, che la questione della lingua dovrebbe avere la precedenza sulla questione economica. Addestrate le figlie a adescarle in casa, rimpinzateli di cibo e bevande. L'oca di San Michele. Eccovi una bella porzione di ripieno al rosmarino sul gozzo. Prendete un altro po' di sugo d'oca prima che si raffreddi. Entusiasti malnutriti. Panino da un penny e via, dietro alla banda. Nessuna pietà per lo scalco. L'idea che paghi un altro è il miglior condimento. Si sentono proprio a casa loro. Passate quelle albicocche, voglio dire pesche. Giorno verrà. Il sole dell'autonomia sorge a nord-ovest. Il sorriso gli svanì dalle labbra mentre camminava. Una nube pesante nascondeva lentamente il sole, ombreggiando la facciata aggrondata di Trinity College. I tram si incrociavano verso il centro, verso la periferia, fragorosi. Parole inutili. Le cose non cambiano. Un giorno dopo l'altro. Squadre di poliziotti escono, ritornano, tram in un senso, nell'altro. Quei due lunatici che vanno a zonzo. Dignam caricato e via. Mina Purfoy, la pancia gonfia gemente sul letto per farsi tirar fuori un bambino. Ne nasce uno al secondo in qualche posto. Un altro ne muore ogni secondo. 5 minuti da quando ho dato da mangiare agli uccelli. 300 han tirato le cuoia. Altri 300 nati. E ne lavan via il sangue. Tutti son lavati nel sangue dell'agnello. Belano. Beh! Un'intera città passa, un'altra ne arriva, passa anch'essa, un'altra arriva, passa via. Case, file di case, strade, chilometri di marciapiedi, mattoni l'uno sopra l'altro, pietre. Cambian di mano, questo proprietario, quell'altro. Il padron di casa non muore mai, dicono. Un altro si infila nei suoi panni quando gli arriva l'avviso di licenziamento. Comprano la località a forza d'oro, eppure tutto l'oro rimane a loro. C'è sotto qualche ladreria. Ammonticchiati nelle città, erosi dai secoli, piramidi sulla sabbia, costruite con pane e cipolle, schiavi, muraglia cinese, Babilonia. Rimangono grosse pietre, torri rotonde, il resto macerie, sobborghi tentacolari, costruiti da speculatori, case di caravan venute su come funghi, fatte di sabbia, rifugio. Per la notte. Nessuno e niente. Questa è proprio la peggiore ora del giorno. Vitalità opaca, oscura. Odio quest'ora. Mi par d'essere stato mangiato e vomitato. La casa del prevosto, il reverendo dottor Salmon, salmone in scatola, inscatolato bene là dentro, come in una cappella mortuaria. Non ci starei neanche pagato. Spero che abbiamo fegato con la pancetta oggi. La natura aborre il vuoto. Il sole si liberò pian piano e accese schegge di luce sull'argenteria nella vetrina di Walter Sexton di fronte, davanti a cui passava John Howard Parnell senza vedere nessuno. Eccolo, il fratello. Tutto il suo ritratto. Una faccia che ti ossessiona. È proprio una coincidenza. Certo, ci sono centinaia di casi che si pensa ad una persona e non si incontra. Come uno che cammina nel sonno. Nessuno lo conosce. Oggi ci deve essere una riunione del Consiglio Comunale. Dice che non si è mai messo l'uniforme da maresciallo del comune da quando ha avuto il posto. Charlie Cavanagh usciva sul suo cavallone, col cappello a tricorno, lisciato, incipriato e rasato. Ma guarda un po' quel suo passo da funerale. Ha mangiato un nuovo guasto. Occhi al burro con contorno di spettri. Mi fa male. Fratello d'un grand'uomo, fratello di suo fratello. Ci starebbe bene sul cavallo da parata. Una capatina al BBC, probabilmente per il caffè, e una partitina a scacchi. Suo fratello usava gli uomini come pedine. Vadano tutti nel pentolone. Paura di criticarlo. Li ghiaccia tutti con quei suoi occhi. Il fascino è tutto lì. Nel nome. Tutti un po' tocchi. Fanny la pazza e l'altra sorella, Mrs. Dickinson, in giro coi cavalli bardati di cuoio rosso. tutto impettito come il chirurgo McArdle. Eppure David Shee l'ha battuto nell'elezione a South Meath. Ha dato le dimissioni e poi si è ritirato a vita pubblica. Il banchetto di un patriota, mangiar bucce di arancia nel parco. Simon Dedalus disse, quando lo mandarono in Parlamento, che Parnell sarebbe uscito dalla tomba e l'avrebbe preso per un braccio e portato via dalla Camera dei Comuni. Della Piora due teste, una delle quali è quella su cui i due poli del mondo hanno dimenticato di incontrarsi, mentre l'altra parla con accento scozzese. I tentacoli... Oltrepassarono Mr. Bloom lungo l'orlo del marciapiede. Barba e bicicletta. Ragazza. Ecco, anche lui. Questa è davvero una coincidenza. Seconda volta. Gli eventi futuri proiettano la loro ombra davanti a sé. Con l'approvazione dell'illustre poeta, Joe Russell. Potrebbe essere Lizzie Twigg, quella con lui. A.E. Cosa vuol dire? Iniziali, forse. Alberto Edoardo. Arturo Edmondo. Alphonsus Ebb. Ed L. Esquire. Che stava dicendo? I poli del mondo con l'accento scozzese. Tentacoli. Piovra. Qualcosa di occulto. Simbolismo. Le fa una conferenza. E lei beve tutto. Non dice una parola. Come aiuto per lavoro letterario. I suoi occhi seguivano la sagoma slanciata vestita di lana villosa, barba e bicicletta. Una donna in ascolto sul suo fianco. Vengono dal ristorante vegetariano. Solo vegetali e frutta. Non si mangian bistecche. Se mangiate, gli occhi di quella mucca vi perseguiteranno per l'eternità. Dice che è più sano. Però gonfiano d'aria ed acqua. Provato. Vi fa andare per tutto il giorno. Peggio d'una ringa affumicata. Sogni tutta la notte. Perché chiamavan cotolette di noci quell'affare che mandato? Nocitariani, fruttariani. Per darvi l'idea di mangiare una vera bistecca. Assurdo. E poi salato, cucinati con la soda. Ti fanno star tutta la notte al rubinetto. Le calze flosce alle caviglie. Una cosa che non posso soffrire. Che cattivo gusto. Questi eterei letterati sono tutti. Sognatori, nebulosi, simbolisti. Esteti sono. Non mi meraviglierei che fosse proprio quel tipo di vitto, vedete, a produrre analoghe onde cerebrali, il poetico. Per esempio, uno di quei poliziotti che trasuda un sugo di stufato dalle camicie. Non ne caveresti fuori un solo verso. Non sanno neanche che cos'è la poesia. Ci vuole un certo stato d'animo. Il nebuloso sognator gabbiano ondeggia sopra il lugubre oceano. Traversò all'angolo di Nassau Street e si fermò alla vetrina di Yates e figlio, studiando i prezzi dei binocoli. E se facessi una capatina dal vecchio Harris a scambiare due chiacchiere col giovane Sinclair? Persona ben educata, probabilmente a far colazione. Devo far accomodare quel mio vecchio binocolo. Lenti Gertz, 6 guinei. I tedeschi si fanno strada dappertutto. Vendono a buone condizioni per conquistare il mercato. Svendono. Forse ne potrei pescare un paio all'ufficio oggetti smarriti delle ferrovie. È incredibile la roba che dimenticano nei treni e ai guardaroba. Ma dove hanno la testa? Anche le donne. Incredibile. L'anno scorso, in viaggio per Ennis, ho dovuto raccogliere la borsa di quella figlia di contadino e dargliela alla stazione di Limerick. Anche denaro, che nessuno va a ritirare. C'è un piccolo orologio là, sul tetto della banca, per provare se i binocoli van bene. Le palpebre si abbassarono fin quasi a nascondere l'iride. Non lo vedo. Basta immaginarsi che c'è e lo si vede. Non lo vedo. Fece dietro front e, restando sotto le tende dei negozi, stese la mano destra a lunghezza di braccio verso il sole. È tanto che volevo far l'esperimento. Sì, completamente. La punta del mignolo nascondeva il disco del sole. Deve essere il fuoco dove si incontrano i raggi. Se avessi occhiali neri... Interessante. Non si faceva che parlare di quelle macchie solari quando eravamo in Lombard Street West. Esplosioni terribili sono. Ci sarà un'eclisse totale quest'anno, verso l'autunno. Ora che ci penso. Quella palla dell'orologio cade quando scocca l'ora di Greenwich. L'orologio è azionato mediante un filo elettrico da Dunsink. Ci dovrò andare qualche volta, il primo sabato del mese. Se potessi farmi presentare al professor Jowley o saper qualcosa della sua famiglia. Basterebbe questo per... Sia sempre sensibile ai complimenti. Adulare dove meno ci si aspetta. Nobile e orgoglioso di discendere dall'amante di un re, sua antenata. Dagli sotto con la vernice. Col berretto alla mano si arriva lontano. Non entrare e sputar fuori quel che si sa che non si deve. Cos'è la parallasse? Metta alla porta il signore. Ah, la mano gli ricadde al fianco. Non se ne saprà mai nulla. Tempo perso. Bolle di gas che girano in aria, si incrociano, scompaiono. Sempre la stessa solfa. Gas, poi solido, poi il mondo, poi il freddo, poi un guscio morto alla deriva, roccia ghiacciata, come quello zucchero filato all'ananas. La luna. Deve essere la luna nuova, ha detto lei. Credo di sì. Passò davanti alla Maison Claire. Aspetta, la luna piena fu quella sera che noi, precisamente domenica, 15, la luna nuova, si andava lungo il Tolca. Niente male come luna di Fervio. Lei canticchiava. La prima luna di maggio nel ciel risplende, amore. Lui a fianco di lei dall'altra parte. Gomito, braccio. Lui, la luce della lucciola di Jasfaville, amore. Tatto, dita, domanda, risposta. Sì. Basta, basta. Se è stato, è stato. Devi. Mr. Bloom, veloce il respiro, più lento il passo, oltrepassò Adam Kurt. Con un senso di sollievo sta calmo. I suoi occhi presero nota. Questa è la strada qui, a mezzogiorno, spalle a gruccia di Bob Doran. La sua bisboccia annuale, diceva McCoy. Bevono per dire o fare qualcosa o cherche la fama. Sua cumbe con amici e donnine, poi il resto dell'anno serio come un gufo. Sì, come pensavo. Si infila all'Empire. Andato. Un po' di acqua di Sels gli farebbe bene. Dove Pat Kinsell aveva il suo teatro dell'arpa prima che Whitebread aprisse il Queen's Theatre. Un bravo ragazzo. Recitazione alla Dion Bussy Cole, con quel faccione di luna piena sotto la cuffietta da ragazza. Tre belle ragazzine del collegio. Come vola il tempo, eh? Con quei mutandoni rossi in mostra sotto le gonnelle. Bevitori. Bevevano, ridevano, spruzzando birra. Gli è andata di traverso. Più forte, Pat. Rosso vivo. Buono per i briaconi. Sghignazzare e fumare. Levati quel cappello bianco. Gli occhi arrossati. Dov'è ora? Chiede l'elemosina in qualche posto. L'arpa che undici fe morir di fame. Ero più felice allora. O ero io quello. O sono io adesso. 28 ne avevo. Lei 23. Quando lasciammo Lombard Street West, qualcosa di cambiato. Mai preso gusto dopo Rudy. Non si può far tornare indietro il tempo. Come tener l'acqua nella mano. Torneresti a quei tempi. Ricominciare da capo. Ti piacerebbe. Non sei felice a casa tua, mio povero ragazzaccio. Mi vuol ricucire i bottoni? Devo rispondere. Scriverò in biblioteca.